Ladies and gentlemen, you are now rocking with Lee the Rockstar. Siamo dark fra, mangia rockstar, non sei un alfa, dreno un alfa, giacche di cavallo scalpita, terra bruciata, Attila, sette in un appartamento, abita, GT Golf no 500 Abarth, Spiro controlla borgate, mezzi chili a piazza di Spagna, impara come cazzo si guadagna, 30 anni ancora a casa da mamma, io pronto a saltare la sbarra, tu perdi troppo in fretta la calma, noi senza volto come la mala, puoi beccarci giù in piazza, cibo scaduto in pancia, doni di Diane per i piedi ti lascia, non distrarmi mentre rollo, dar polo finché che non muoio, dottor Martins di cuoio, pronto a lasciarti senza volto, se non sparo senza botto, nel bar è il mio giubbotto, nei bar so dai sciroppo, i miei fraci finiscono sotto, abbasso il capo perché ogni capo, sopra di sé ha un capo, ti lascio un assegno bucato, morto con il cuscino bucato, mio fratello l'hanno beccato, tuo fratello invece ha parlato, i miei fra labbra cucite, con il fottuto nylon. Andiamo via Marte gratis, abbiamo Martin Grammy, Dark Paul Bimbi Sacri, rocce verdi smeraldi, sono Dio per sti bastardi, è tempo di inginocchiarsi, senza alzare lo sguardo, oltre i miei pantaloni bianchi e le mie Jordan Elefante. Lei dice che sono falso, ma non metto cose false. Il giudizio di una troia mi rimbalza, zio Basca. Sto in giro coi ragazzi, mi chiamano Pyrex. E la tua tipa esplode, 4 colpi Glock 9, si becca 10 e lode, 24 anni cena solo 19, casse risate con i diavoli a Rione, la gang maledetta a cui ti devi sottoporre, troia bianco latte dice che sono gore, Dark Polo gang catechismo comunione, cresima in cucina con 6 3 pentole in plexiglass, fottute pentole in plexiglass. Non parlo con te se fra parli dal fame, non parlo con te se parli con le guardie, non apro la bocca solo per parlare, non so cosa dirti, non farmi parlare. Chicago mi beccano sneaker pesanti, vedi Face Nelson, niente da dire, passaporto falso, scappare ai Caraibi, Roma e la gabbia mi adattano gli anni, pistole e giocattolo non sono giochi, giochi pesanti ti scoppiano in mano, mano pesante come cazzo giochi, giochi diventano stragi in un attimo. Alzo la testa dove sono nato, mondo di merda l'ho scelto sbagliato, nascere sano in un mondo malato ti ammala da dentro fra il cuore bucato. Non posso più chiudere gli occhi su tutto, sono distrutti, recupero i pezzi, ora l'incastro, uno sopra tutti, amore e rispetto fra te soprattutto, non lascio una rap, nemico pubblico, spavaldo se vengo fra vi levo tutto, partiamo alla pari se parto centesimo, non siamo partiti e fra già ti sei reso, ma con le molle mi sento leggero, speri di vincere non fai sul serio, non serve sperare per questo non spero, non creda chi crede per questo non credo.